il falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Anche oggi puntata di musica. Bene, nella storia della musica ci sono migliaia di grandissimi musicisti, poi ci sono quelli che, oltre a essere grandi musicisti, sanno delineare la strada agli altri, quelli che in qualche modo riescono a cambiare il corso delle cose. Quelli sono i geni o comunque le eccezionalità. E oggi parliamo di un cantante afroamericano che fu fondamentale nell'evoluzione del soul, tanto da meritarsi l'appellativo di Prince of Soul. Il suo nome è Marvin Gaye, forse uno dei più profondi e sensibili artisti del panorama musicale internazionale. Era una star di punta a cavallo soprattutto degli anni 60 e 70, una star di punta della Motown, la casa discografica che lancia tutti i più grandi artisti afroamericani nel Novecento. Lui ha una carriera, Marvin Gaye, che è una escalation di successi, ma anche, come spesso ahimè accade, una vita privata piena di tormenti e di sofferenze. Ancora oggi i suoi dischi sono molto richiesti, ascoltati, influenzano le generazioni più giovani, forse per la forza dei suoi testi che parlano anche di politica, di economia, di ambiente, d'amore, di conflitti internazionali. Lui è considerato uno degli artisti più importanti della sua era. Ma ascoltiamo cosa diceva lui stesso circa il ruolo dell'artista. Quando sei un personaggio famoso e ti trovi sotto i riflettori, hai il dovere di dare al pubblico molto più di una semplice buona performance. Se sei una cosiddetta star, hai la possibilità di offrire buoni pensieri. Puoi fare molto per le persone. Puoi quasi diventare un missionario, specialmente per i giovani. Se loro pensano bene di te, se credono in te, puoi aiutarli ad amare, a rispettare gli altri, ad avere buoni sentimenti. Al pubblico si deve molto di più di una buona performance. Quindi per Marvin Gaye essere una star, come arriva lui a essere nel ventennio 65-85, non è una condizione di privilegio, non è solo fare musica bella, vendere tanti dischi, è una missione. Cerchiamo di capire chi è Marvin Gaye, soprattutto quali sono le influenze che segnano la sua vita e il suo cammino nel mondo della musica. Dunque, intanto, Marvin Pence Gaye Jr. nasce a Washington il 2 aprile del 39. La sua è una famiglia molto legata alla Chiesa, come racconta lui stesso. Mio padre era un ministro religioso. Mia madre lavorava sodo come domestica, quindi noi abbiamo avuto sempre abbastanza da mangiare. La nostra vita si svolgeva tutto intorno alla Chiesa. Quando ero bambino ascoltavo musica costantemente, specialmente i gospel. Beh, molti artisti afroamericani nascono negli ambienti legati alla Chiesa. Mi viene in mente per esempio Aretha Franklin, anche lei era figlia di un pastore protestante. Però nel caso di Marvin c'è qualcosa in più, c'è un padre che avrà un ruolo determinante in tutta la sua esistenza, nella sua tragica fine, perché il reverendo Marvin Gaye Senior è un uomo veramente ambiguo. Beh, nella vita pubblica è ministro della Chiesa protestante pentecostale appartenente a una setta estremista che si chiama la Casa di Dio. per i seguaci di questa setta è peccato tutto, anche fare sport o ascoltare musica che non sia strettamente sacra. Quindi un uomo integerrimo e severissimo, ma nella vita privata è dilaniato dai sensi di colpa, perché probabilmente è un omosessuale latente, e nell'intimità si traveste da donna, regolarmente indossa i vestiti della moglie, scatena una sessualità repressa che diventa violenza sulla famiglia. I ricordi della sorella di Marvin, Jan, sono molto crudi, sono ricordi che fanno rabbrividire. Mio padre era come un re, potentissimo e crudele. Ci comandava a bacchetta e ogni scusa era buona per picchiarci. In particolare se la prendeva con Marvin, perché lui era uno spirito libero, non gli potevi far chinare la testa. Se disubbidiva, ma anche se non ricordava bene un certo passo della Bibbia che nostro padre ci aveva imposto di studiare a memoria, lui lo obbligava a spogliarsi e poi lo frustava con la cintola dei pantaloni. Beh, questi sono padri che ti segnano per tutta la vita e in genere ti segnano male. Però per fortuna Marvin ha due alleati, la madre che lo difende, lo incoraggia a non mollare, e l'altro alleato che è la musica. Non solo quella che ha il permesso di ascoltare nella chiesa di suo padre, ma anche quella che sta nascendo, che è il rhythm and blues, Nat King Cole, Ray Charles, Frank Sinatra. Lui spera un giorno di poter cantare come loro, perché cantare è la sua grande passione, però intanto la sua vita è un dramma. Così appena può decide di scappare, a 17 anni si arruola come pilota nell'esercito. Sotto le armi però la disciplina è severissima, è quasi come quando stava con suo padre, più che farlo volare gli fanno pelare montagne di patate. Così si congeda, però piuttosto che tornare a casa va a fare il lavapiatti e continua a cantare. Alcuni amici gli presentano Harvey Fuca, che è un giovane piuttosto bravo che sta mettendo su un gruppo, i Moonglows, con i quali Marvin inizia a cantare. Proprio grazie a questo Harvey Fuca, Marvin Gaye conosce il fondatore della Motown, che si chiama Berry Gordy, e Berry Gordy ricorda così il suo primo incontro con lui. One day in the early 60s in Detroit. La prima volta che vidi Marvin fu a una festa di Natale a casa nostra a Detroit. Marvin era seduto al piano e strimpellava. Cantava anche qualcosa e mi colpì. Così mi avvicinai e gli dissi che mi interessava molto quello che faceva. Aveva un suono che definii commerciale, ma al tempo stesso era profondo. Veniva da dentro. Una contraddizione, se volete. Qualcosa di grandioso che ho trovato solo in lui e che in tanti anni non sono riuscito a decifrare bene. Così Marvin Gaye firma il suo contratto con la Motown e ha un successo immediato. La sua stella inizia a risplendere nel firmamento degli artisti più amati dal pubblico con la canzone di esordio che si chiama How Sweet Is To Be Loved By You, e vende subito oltre 1 milione di copie. Così Marvin Gaye diventa già alla partenza un artista di punta dell'entourage dei Gordy alla Motown. Il suo primo successo, How Sweet Is To Be Loved By You, diventa una canzone che resterà nella storia anche per una bellissima cover di James Taylor di una decina d'anni dopo. Siamo nel 1964. E lui è bello, elegante, raffinato, e sembra che i tristi trascorsi della sua infanzia siano solo un brutto ricordo, perché lui è già un divo. E poi si è innamorato. Ancora una volta il suo destino è legato a quello della famiglia Gordy, perché Berry Gordy, del quale è diventato amico, gli ha presentato una delle sue sorelle, Annie, che lo ha stregato, e Marvin se ne innamora perdutamente, lo racconta lei stessa. Nelle sue canzoni sentivi la felicità, la gioia, era grande. How Sweet It Is, oh, Pride and Joy. In queste canzoni sentivi semplicemente quello che stava accadendo tra di noi, qualcosa di veramente bellissimo, meraviglioso. Lui adottò una strategia incredibile per conquistarmi. Veniva tutti i giorni a trovarmi nel mio ufficio alla Motown, sempre alle 4 del pomeriggio, sempre, per 2 mesi, puntuale. Poi, un giorno, non venne. Io guardavo il mio orologio e dicevo, sono le 4 e 5 e 10, dov'è? Ad un certo punto lo vidi affacciarsi da dietro un angolo. Rideva e mi disse, ti sono mancato, eh? E io gli risposi, mi sei mancato, sì. I said, yes, I did. Marvin Gaye e Annie Gordy si sposano l'8 aprile 64. Prima cosa particolare, soprattutto per quegli anni, lui ha 25 anni, lei 43, 18 e in più. Molti pensano che si tratti della solita storia di interesse, perché lei, insomma, è una dirigente della Motown, la sorella maggiore del Big Boss, di Barry. E invece non è così, perché i due sono veramente innamorati. Certo, lui diventa un artista privilegiato della Motown, si accapara gli autori migliori, le sue hit iniziano a moltiplicarsi, ma questo anche e soprattutto per i suoi meriti personali. E in quel periodo ci sono alcuni duetti con cantanti della Motown, Mary Wells, Kim Weston, e Kim Weston è quella con la quale canta uno dei suoi maggiori successi, It Takes Two. E Marvin è una star ormai, va ovunque, la gente impazzisce per lui. A San Francisco c'è un club che si chiama il Bimble, e Marvin ci canta spesso, è uno dei club che vanno per la maggiore nella città. La folla si scatena, la coda delle persone è assolutamente sproporzionata alla grandezza del locale. Ascoltiamo su tutto ciò il racconto di Barry Gordy. Noi tutti partimmo da Detroit per andare a San Francisco a vederlo. Riuscimmo a malapena a entrare nel club, proprio perché eravamo noi, i suoi produttori, perché la gente era stretta come delle sardine. Se ne stavano tutti lì, uno addosso all'altro, pur di vederlo. Era il numero uno, un meraviglioso artista e anche un sex symbol. Il presentatore uscì sul palco e disse: «Beh, gente, l'uomo che state aspettando!» E tutti allora applaudirono all'inverosimile. L'uomo che vi ha cantato «How sweet it is!» E la folla impazzì, letteralmente. Lui uscì elegantissimo, con il cilindro in testa, e dette il tempo all'orchestra schioccando le dita e sorridendo, come faceva lui. E così la carriera di Marvin Gaye decolla sempre più, anzi arriva a uno dei suoi livelli più alti grazie a una cantante giovanissima destinata a formare con lui una delle coppie più famose di quel periodo. Lei si chiama Tammy Terrell. Tammy e Marvin funzionano alla grande assieme, si compensano musicalmente, umanamente, perché Tammy aiuta molto Marvin, che non è uno da palcoscenico, è più un cantante da sala di registrazione, però con lei al suo fianco si sente più sicuro, le sue performance migliorano, le performance sul palco naturalmente. La coppia realizza una serie di duetti che riscuotono un grandissimo successo, sono il duo più famoso d'America, Marvin Gaye e Tammy Terrell. Alla sera del 14 ottobre 1967 sono impegnati in un concerto al Hampden Sydney College di Fayetteville in Virginia. Come sempre il pubblico impazzisce per la serata, che diventa magnifica. All'improvviso però Tammy smette di cantare e sviene tra le braccia di Marvin. Non si sa bene cosa le sia capitato, ma la situazione appare gravissima da subito. Nicholas Ashford, che è autore delle canzoni della coppia, ricorda questa pagina triste della vita di tutta la Motown. Si scoprì che aveva un tumore al cervello, inoperabile. Fu terribile per tutti, ma in particolare Marvin entrò in depressione. Si sentiva quasi colpevole. Chissà perché. Le voleva bene. Erano diventati come fratelli. E forse lui nemmeno si rendeva conto di quello che stava capitando. Quando Tammy morì, pensammo che non si sarebbe più ripreso. Era diventato depresso e se ne stava nel suo guscio. He didn't come out of his shell. Tammy Terrell muore a neanche 25 anni, siamo nel 1970, porta la devastazione nel cuore di Marvin, che giura a se stesso che non canterà mai più un duetto. E tra l'altro si aggiunge un fatto incredibile, perché una canzone che lui aveva registrato prima che Tammy si ammalasse viene rilasciata dalla Motown proprio a ridosso della morte della cantante e diventa un successo incredibile, sicuramente il più grande dall'inizio della sua carriera. La canzone la conoscete tutti, è un successo mondiale ancora oggi, l'hanno rifatta tutti, i Creedence Clearwater Revival per esempio, ma tanti altri. La canzone è I Heard It Through the Grapevine e tra poco vi racconto qualcosa di molto interessante. Ci sono dei pezzi, delle canzoni che lasciano il segno, magari non sappiamo il titolo, magari non sappiamo chi le canta, però rappresentano qualcosa per ciascuno di noi. Questa è una di quelle canzoni e significa qualcosa sicuramente per tutti quelli che hanno amato Il Grande Freddo, il film diretto da Lawrence Kasdan del 1983, che diventa un cult, che ha il merito di aver segnato un'epoca, l'esordio di attori come Glenn Close, Jeff Goldblum, William Hurt, anche il merito di aver riportato in auge questa stupenda canzone, di averla fatta conoscere alle nuove generazioni. L'espressione I heard it through the grapevine può essere tradotta con, non so, l'ho sentito dire in giro, deriva dal gergo degli schiavi neri durante la guerra civile, che usavano una sorta di telegrafo umano per comunicare tra di loro mentre lavoravano nelle vigne. Era scritta da Barry Strong, da Norman Whitfield, e una canzone racconta la sofferenza di un uomo che viene a conoscenza del tradimento della sua amata attraverso il gossip della gente, appunto Through the Grapevine. Questa canzone diviene il più grande successo di vendite di tutti i tempi della storia della Motown. Marvin cantava in maniera quasi paranoide. La sua voce era piena di paura. Sembrava riversare tutti i suoi problemi esistenziali e i suoi drammi in quella canzone. E questo la fece diventare un'interpretazione da pelle d'oca. Which made it so compelling. Beh, questa è l'opinione di Michael Eric Dyson, che è un critico musicale che non ha dubbi sul successo di I Heard It Through the Grapevine. Dice che risiede tutto nella capacità di Marvin Gaye, di trasformare la sua sofferenza in qualcosa di straordinario. Spesso la storia della musica sarà costellata da persone che riescono a trasformare in positivo la loro sofferenza. Lui, tra l'altro, in una crisi profonda, perché la cantante con la quale duettava, Tammy Terrell, è morta tragicamente a 25 anni. E in più il suo matrimonio con Annie Gordy, la sorella del capo della Motown, quella che aveva 18 anni più di lui, non va tanto bene. Insomma, tutto sembra girare bene sul palco e in sala di registrazione e male fuori. E anche la situazione politica del momento non è idilliaca. Incominciai a pensare alla guerra del Vietnam, a Martin Luther King. Mi sembrò che il paese fosse sull'orlo di una guerra civile. Successe qualcosa dentro di me. Decisi che dovevo scrivere delle parole che potessero raggiungere l'anima delle persone. Mi domandai: ma cosa sta succedendo? La domanda che si fa Marvin Gaye, e un po' tutti se la fanno questa domanda, è: what's going on? Cosa sta succedendo? E le risposte arrivano in una canzone la cui genesi merita di essere raccontata, perché Reynaldo Hobby Benson, che è un membro della band i Four Tops, sempre della Motown, un'altra band mitica, assiste impotente a una carica brutale della polizia a Berkeley in California mentre si trovava lì per un concerto. Torna a Detroit e butta giù una canzone, non ha una struttura ben definita. Lui la propone al suo gruppo e per tutta risposta il gruppo dice che non vogliono cantare canzoni di protesta. Lui è deluso perché quella per lui non è una canzone di protesta, è una canzone d'amore per i propri simili e loro non lo capiscono. Poi ha una illuminazione, Marvin Gaye, lui capirà. E quando Marvin sente quelle note abbozzate che si domandano cosa sta capitando all'umanità, si illumina. è quello che fa per lui. Ha appena parlato al telefono col fratello Frankie, che è rientrato dopo 3 anni di guerra in Vietnam, e con quello che sta capitando non si può in questo momento cantare canzoni d'amore. Sentiamo Barry Gordy. Quando Marvin mi disse che voleva fare una canzone di protesta, io rimasi pietrificato. Ero terrorizzato che si rovinasse l'immagine. Ma lui mi disse: Barry, ascoltala. Non l'ho scritta io questa canzone. È Dio che me l'ha dettata. Io l'ascoltai e gli credetti. La svolta può essere pericolosa e Barry Gordy lo sa, teme che il pubblico, che è abituato a vedere un Marvin Gaye sensuale, innamorato, possa non riconoscerlo più nel giovane impegnato sul fronte del sociale. Però quando What's Going On viene pubblicata nel gennaio del 71, raggiunge la prima posizione in tutte le classifiche d'America, vende 2 milioni di copie in un tempo talmente rapido da diventare la canzone prodotta dalla Motown che ottiene un risultato del genere nel tempo più breve. Il pubblico ha capito e Marvin è soddisfatto. Un artista, se è un vero artista, ha in testa una sola cosa: svegliare le menti della gente. What's Going On non è solamente un grande successo, è qualcosa di più. Ecco l'opinione del critico musicale Michael Eric Dyson. Marvin Gaye facilitò la trasformazione della musica soul in qualcosa di molto potente con What's Going On, perché fino a quel momento la musica nera era sottovalutata e non era considerata intellettuale. Marvin Gaye dimostrò che possono coesistere melodie bellissime e concetti molto profondi e di importanza sociale. Make an extraordinarily moving and poignant record. Mother, there's too many of you crying. Brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love here today. Sull'onda di questo grande successo, Marvin Gaye torna in sala di registrazione per iniziare un nuovo album. È il 1972, lui ha 31 anni, è ricco, famoso, ma non è felice. E il suo rapporto con il padre non è mai migliorato. È impossibile migliorare un rapporto con un padre così. E intanto il suo matrimonio vacilla. È proprio durante una sessione di lavoro che lui conosce Janice Hunter, una ragazza di soli 16 anni, quindi insomma senza mezze misure. Prima una moglie di 18 anni più vecchia di lui, adesso lui 31, lei 16. Si innamorano follemente. Questa passione si tramuta in un album di grande sensualità e di energia. Let's Get It On. Let's Get It On è un enorme successo, 3 milioni di copie vendute, ed è anche la guarigione per Marvin Gaye, anche se è una guarigione momentanea. Intanto i terribili sensi di colpa legati al sesso, quelli che suo padre ha radicato nella sua mente, si placano nel suo rapporto con Janice e lui può esprimersi liberamente, creando quello che viene considerato a tutt'oggi uno degli album più carichi di sensualità mai registrati nella storia della musica. Ce lo conferma la stessa Janice. Let's Get It On, it was straight up sexual. Let's Get It On era molto sensuale. C'era dentro tutta la sensualità di Marvin. Trattava di quello che lui pensava degli uomini e delle donne e del loro rapporto. E non aveva nessuna paura di esprimerlo. Una terza vita, si può dire. Prima il giovanotto bello e spensierato, poi l'uomo impegnato contro la guerra e la violenza, adesso il sex symbol. Però i demoni di Marvin non lo lasciano in pace, nonostante l'amore con Janice, nonostante la nascita di due figli che lui ama teneramente, lui continua a lottare contro i fantasmi della sua infanzia che lo trascinano nel vortice della dipendenza dalla cocaina. E così i guadagni milionari vengono dilapidati velocemente. Quando Annie Gordy chiede e ottiene alimenti milionari commisurati agli introiti del marito, lui non può pagarli e lui è rovinato. Deve dare alla sua ex moglie un sacco di soldi che non ha, deve pagare un'enormità di tasse, è drogato, il suo rapporto con Janice va in crisi, si conclude con un altro divorzio. Così decide di scappare, si rifugia alle Hawaii, dove vive in un pulmino come un barbone. Poi, come gli è successo altre volte, trova la forza dentro l'abisso delle sue stesse sofferenze e va in Belgio, dove si disintossica. A quel punto, quello che dovevo fare era semplicemente essere un buon artista. Avevo sbagliato. Mi ero dimenticato della mia vera natura. E così, come una fenice che risorge dalle sue ceneri per l'ennesima volta, ecco Marvin di nuovo alla ribalta con un singolo che lo fa tornare più grande che mai, perché il singolo è Sexual Healing. Sexual Healing esce nel settembre dell'82, naturalmente non più sotto la etichetta Motown della famiglia Gordy, ma per la Columbia. È un brano spettacolare, vende immediatamente 2 milioni di copie, diventa una hit mondiale, probabilmente lo aiuta anche a pagare gli alimenti alle ex mogli che nel frattempo sono diventate due, però lui intanto vince ben 2 Grammy Award. Grazie infinite, signore e signori. Io non sono molto per i discorsi, questo l'ho sempre detto. Ho aspettato molto tempo, 27 anni, per vincere questo premio. Grazie. Questo premio è per la mia famiglia, i miei bambini. Dove siete? Alzatevi e dite ciao papà, mia madre, vi amo tutti. Grazie signore, state con me, cercherò di darvi ancora di più. Beh, se non altro non ringrazia suo padre. Sembra un uomo felice quello che ritira il Grammy, perché è un uomo bello, ricco, di nuovo, famoso, 44 anni, figli che lo amano, ha scritto magnifiche canzoni e ne può scrivere ancora moltissime, eppure il suo demone è vivo in lui più che mai. Non solo continua a cascare nella terribile dipendenza dalla droga, ma dopo una serie di concerti spettacolari nei quali il pubblico lo assedia, gli si impossessa di lui una mania paranoide, sicuramente figlia della cocaina che assume in quantità industriali. Bene, la mania è che qualcuno voglia ucciderlo, per quello compra una pistola e poi cosa fa? La consegna a chi? A suo padre, quando decide di rifugiarsi di nuovo a casa sua dalla madre. Insomma, non potrebbe commettere serie di errori più grande, con l'ultimo fatale. Soul singer Marvin Gaye has been shot dead at his father's home in Los Angeles. From Los Angeles, Steve Futterman. According to the police report, the father took out a handgun and shot Marvin Gaye 3 times. He was pronounced dead on arrival at a hospital. E così una lite banale con quel padre che lo tormenta da quando è nato sfocia in tragedia. partono tre colpi da quella pistola che Marvin ha comprato e consegnato proprio al reverendo, forse con un inconscio desiderio di farla finita. Tre colpi sparati da suo padre che mettono fine a una vita tormentata e sublime, ma non alla sua arte, naturalmente. L'arte rimane immortale proprio come voleva lui. Quello che un artista vuole di più, direi che è senza dubbio l'immortalità. Se sei un cantante che ama quello che fa dal profondo del cuore, la cosa più importante per te è l'immortalità. Sapere che quando te ne vai la gente si ricorderà di te per anni, nei secoli a venire. Eh sì, nei secoli a venire, almeno nei decenni a venire, insomma, questo è lo scopo di ogni musicista che si rispetti. Ci sono storie di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala. Marvin Gaye li ha dati, ricevuti, è salito, è sceso 100 volte, ma soprattutto ha lasciato della grande musica. Se volete mandarci dei commenti, segnalare altre vite su cui puntare i riflettori o comunque il microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it oppure venite a cercarci e a cercarmi su tutti i miei e i nostri social. Se volete mi trovate, lo sapete. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Simona Capodanno.